Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, ciao Flavio Suardi. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti. C'è il coach Dan Peterson naturalmente, ciao coach. Ciao, ciao ragazzi. E con noi oggi c'è anche Carlo Recalcati, grazie Carlo. Non senti in cuffia? Eh? Provediamo, facciamo. Non sento Dan ed è molto preoccupante. Recalcati, sono qua, ok. Adesso ti sento, adesso sto molto meglio. No, perché gli avevamo abbassato il volume per non farvi comunicare, sai coach. Per i nostri ragazzi d'America stagione è già finita, in modo un po' ironico, se mi permetti coach, Bargnani e Berinelli che battono Gallinari e D'Antoni, battono i Knicks ma piangono e stanno fuori, fallimento Toronto. Well, diciamo Toronto, ovviamente fallimento 40 e 42, ma quando uno pensa dove erano, non so, un mese, sei settimane fa che erano al quinto posto, 6 o 7 partite sopra il 50% con il playoff in mano, anzi stavamo dicendo, io ho detto a Sport Italia, stai attento con Toronto, se arrivano lì una squadra giovane, motivata, se Boston li becca, cioè tutti discorsi inutili perché hanno avuto due crisi quest'anno, una all'inizio, sono partite 7 vinte e 13 perse, poi hanno fatto 24 e 11 per le prossime 35 partite per mettersi veramente nelle grandissime condizioni, e poi questo tonfo che hanno fatto alla fine nato da due o tre cose: uno, una stagione negativa di Turkoglu; secondo, Bosch infortunato e la squadra non ha reso senza di lui; poi Bosch ritorna, la squadra non regge con lui al ritorno perché succede anche questo, poi alla fine tutte le cose insieme, sia Turkoglu e compagnia, però le cose non sono andate bene per niente. Non voglio dire fallimentare, però deludente assolutamente per loro. Io ho sentito un tuo vecchio playmaker che adesso allena i Knicks, ho sentito anche Danilo Gallinari, più tardi ascolteremo queste interviste che ci hanno dato ieri. Carlo, tu sei stato molte volte, diverse volte in America a seguire i nostri da allenatore della nazionale. Come valuti adesso la loro stagione? Beh, io credo che una stagione vada valutato senza tener conto delle cifre. Sì. E quindi non bisogna andare a vedere se le cifre rispetto alle stagioni precedenti sono migliori o meno. Probabilmente lo sono. Bisogna andare a vedere l'impatto che i giocatori hanno avuto nelle loro franchigie. E io direi che l'impatto di Danilo, nonostante il brutto campionato che ha fatto New York, sia stato estremamente positivo, proprio perché ha dato una novità e soprattutto ha dato la possibilità a New York di capire che è un giocatore su cui poter investire per il proprio futuro, e quindi nella costruzione della squadra dei prossimi anni dovranno tener conto della sua presenza. Per quanto riguarda Bargnani e Berinelli, secondo me non si può dire la stessa cosa, perché è chiaro che il giocatore che ha tanto spazio, che ha possibilità, chiaramente il discorso non è riferito a Berinelli ma più a Bargnani, il giocatore che ha tanto spazio deve essere capace di far diventare una squadra competitiva, una squadra vincente. Io credo che questo sia un pochino il problema nostro, dico in generale dei nostri giocatori. Purtroppo nei playoff ci saranno 20 giocatori europei coinvolti, non ci sarà nessuno dei nostri, ci saranno 12 nazioni coinvolte, tra le quali la Svizzera e la Georgia, e non c'è l'Italia, e quindi questo è un fatto che sicuramente ci deve comunque far riflettere. Certo. Costu, che voto dai a Bargnani, Berinelli e Gallinari in questa stagione? Well, diciamo questo qui, ha detto Charlie perfettamente, Gallinari è emerso quest'anno, anzi parlano di lui in grandi termini, addirittura Peter Vecsey, grande giornalista di New York Post, ha dato a lui il suo premio, diciamo, non è ufficiale, del più migliorato, e l'ha messo, udite, come menzione speciale, cioè non fra i primi, però considerate nelle squadre tutta difesa, pensa te, tutta difesa per la parte est dell'NBA, quindi è stato un piccolo elogio a Danilo per il miglioramento in difesa, per i rimbalzi, ovviamente è un gran tiratore, un gran passatore, ma ha cominciato anche a entrare uno contro uno e giocare a spalla e canestro, quello che ci è stato chiesto di lui. Quindi ovviamente per Danilo è estremamente positivo lui, in un contesto ha cantato nel deserto, come si dice, però per quanto riguarda Bellinelli non ha avuto l'opportunità. Cioè, Bellinelli probabilmente deve tornare in Europa o trovare una squadra NBA dove lui potrà veramente giocare. Cioè, dico, sì, come ha fatto Danilo quest'anno? Sì, 30 sì, minuti a partita. Però io sono convinto, io sono super convinto di Bellinelli. Se lui ogni volta che Toronto dava lui la possibilità di giocare, quasi ha risposto. Poi questa ultima partita, quella che hanno perso, ha fatto lui, non so, 24 minuti, 0 punti. Ma certo, non puoi giudicare lui per questo, dire ha fatto 24 minuti, 0 punti, 0 su 6 al tiro, quello che era. È sfiduciato, non aspettava di giocare tanti minuti e fa parte del gioco, ok? Questa è assolutamente la situazione. Bargnani è un po' diverso, cioè Bargnani ha fatto più o meno, diciamo, il minimo indispensabile, se vogliamo dire. Poteva benissimo migliorare a certe cose e quindi... però non l'ha fatto, non ha trascinato la squadra quando doveva, quando ci voleva, questo qui che non è. Bargnani, bisogna capire, lui non sarà mai un trascinatore, mai un leader, lui sarà sempre un pezzo della macchina, ma un pezzo veramente importante perché è un talento, è un 2-13, agilissimo, tira da fuori, entra, schiaccia, sa passare altre cose, qualche stoppata, qualche rimbalzo, non abbastanza. Un anno, diciamo, di una certa... una costanza, ha fatto rendimento minimo, come dico io. Lui ha miglioramenti da fare ancora e ha già fatto 4 stagioni in NBA. Non voglio dire deludente, ma non alle aspettative. Non all'altezza delle aspettative, hai ragione. Grazie coach, sentiamo venerdì. Ciao ragazzi, ciao Charlie, ciao, ciao a tutti. Palla spicchi. Ecco che torniamo con noi, Charlie Recalcati, 800 24 00 24, per i vostri messaggi, per le vostre telefonate, messaggi 349 238 6666. Arriva un abbraccio virtuale, Charlie, da Roberto da Bologna. Abbraccio a Carlo Artefice, il nostro primo scudetto indimenticabile. Io volevo chiederti questo, sempre rimanendo in tema di giocatori italiani in NBA. Caratterialmente parlando tu li conosci tutti perché li hai allenati. Secondo me, se da Gallinari ti puoi aspettare che possa anche diventare un uomo franchigia nel suo futuro, probabilmente da Bargnani assolutamente no, e da Bellinelli no, perché non ha magari caratteristiche tecniche per fare l'uomo franchigia, ma tra i due probabilmente è Gallinari quello che potrebbe diventare un uomo simbolo di una squadra NBA. Secondo te? Sì, sì, no, sono convinto, sono estremamente convinto, proprio perché Danilo ha tutto per poterlo diventare. Quindi lo diventerà, ha capacità tecniche, soprattutto ha capacità caratteriali e ha la grande capacità di coinvolgere i compagni, non solo dal punto di vista tecnico e del lavoro che vai a svolgere sul campo, ma anche dal punto di vista caratteriale, morale, al di fuori del campo e soprattutto nello spogliatoio. Per cui io su Danilo, protagonista nell'NBA e uomo franchigia, posso spendere anche dei soldi. Senti, io ho sentito ieri, appunto, come dicevo prima, da Antonio Gallinari. Abbiamo ovviamente parlato anche di nazionali in due chiavi. Una, Danilo, giocatore che tu non hai mai avuto. Per estremo di paradosso che di Danilo Gallinari in nazionale si parla da 3 anni. Io l'ho avuto per qualche allenamento, l'hai avuto. Totale da verificare quanto fosse importante. Bravo. Nel momento in cui non l'ho più avuto. Nel momento in cui poi si è fatto male. E D'Antoni, sarà fatto il nome di D'Antoni anche come possibile allenatore della nazionale. Allora ho chiesto queste due cose. Sentiamo cosa mi hanno detto. Prima Gallinari, poi D'Antoni. Sinceramente mi ero messo in testa di pensarci a fine stagione, quindi ci sto iniziando a pensare in questi giorni, a fare le prime considerazioni, quindi non ho ancora deciso, non ho ancora parlato con Simone o con Dino per prendere una decisione, quindi non so ancora. La posizione del mio club, ci abbiamo parlato così, giusto due o 3 battute, ma non abbiamo ancora riflettuto assieme, quindi proprio una cosa che dobbiamo ancora fare. No, ma sono discorsi con Dino di aiutare lui un pochino qui e lì, ma guarda, non è stato una cosa possibile. Mie mani sono piene qui con New York, anche se avevo già un contratto con la nazionale degli Stati Uniti, ma Non è stato un discorso, diciamo, molto in fondo. Abbiamo parlato solo in generale, perché lui è amico. E poi anche con Gallinari, con Bagnani, tutti qui, come si può fare una cosa buona per l'Italia. Io spero nel futuro che loro tornino a quello che l'Italia merita, perché ci sono tanti buoni giocatori in Italia. Sentito, Gianni, Gallinari in nazionale, sto cominciando adesso, finito ieri sera di giocare, adesso comincio a pensarci. New York, la posizione di New York non è chiarissima al momento sulla possibilità di Danilo di vestire finalmente una maglia azzurra che di fatto non ha mai messo. E si può credere che lui ne abbia tanta voglia, e si può credere che lui ne abbia tanta voglia. Io credo che non ci sarà. Io credo che non ci sarà, non per cattiva volontà, ma perché chiaramente è un giocatore che arriva da una stagione, dalla sua prima stagione NBA, dopo aver avuto un intervento chirurgico che lo ha tenuto fuori, che chiaramente lo costringe, lo costringerà adesso ma anche in futuro a fare del lavoro particolare. Lavoro che in una stagione NBA con le tante partite, le tante trasferte, probabilmente non è in grado di fare. È vero che siamo al 15 di aprile e quindi tempo ce ne sarebbe e ce ne sarà. Però credo che la difficoltà per Danilo di essere presente nella nazionale sia legata esclusivamente alle regole NBA. Le regole NBA sono molto restrittive da un certo punto di vista, insomma, mi pare di capire. Beh, a parte che tu questa situazione l'hai anche già vissuta, perché è capitato che tu ti dovessi rapportare con le franchigie NBA che sono tra virgolette proprietari dei giocatori italiani, quindi lì c'è un po' di scontro tra giocatore che magari vuole andare e il club sì, che no, preferisce. Ti devo dire che c'è un accordo tra FIBA e NBA, e questo accordo è tale per cui le franchigie non possono proibire ai propri giocatori di partecipare all'attività delle squadre nazionali. Però è chiaro che un conto è proibire, un conto è stimolare, sollecitare un proprio tesserato o un proprio giocatore a prendere una decisione di un certo tipo. Ci sono mille modi per poterlo fare, mille cose che si possono dire, al di là appunto del fatto che poi dopo ci sono anche regole che vanno rispettate. Sì, è come quando a mamma e papà ti dicono no, non uscire, io dico no, voglio uscire, esco lo stesso, però sappi che a me non fa piacere. Più o meno quel discorso lì. Andiamo agli ascoltatori. Primo Giovanni da Varese, poi Angelo, provincia di Torino. 800 24 00 24. Giovanni. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io ho 30 anni ed è 20 anni che sono tifoso della pallacanestro Varese, quindi vabbè, primi 10? Primi 10? Primi 10 no? I primi 10 di riflesso, i primi 10 inconsapevoli. Quindi vabbè, volevo intanto salutare il coach della Stella che naturalmente rimarrà per sempre nei ricordi di tutta Masnago. E volevo chiedergli, visto anche i discorsi che state facendo oggi, una riflessione sui giocatori italiani, diciamo la generazione dell'oro europeo del 99, su quali tra essi avrebbero potuto avere un ruolo nell'NBA. Chiaramente, vabbè, in particolare sto pensando ad Andrea Meneghina, Gregor Fucsica, Myers, però non solo dire sì, ok, potevano giocare, ma a che livello? Perché per esempio io sono convinto che se Andrea Meneghin fosse nato non nel 74 ma nell'84, noi avremmo ancora adesso 9 scudetti, non 10, perché sarebbe andato molto presto in America e probabilmente avrebbe fatto la carriera che sta facendo adesso Gallinari. Così come se Gallinari invece fosse nato 10 anni prima, probabilmente adesso Milano starebbe lottando concretamente per qualcosa di più. Sì. Volevo capire un attimo da cosa ne pensavo. Considerazioni interessanti. Sì, sono considerazioni. Innanzitutto ti ringrazio e saluto tutti gli amici di Varese. Sono considerazioni interessanti, soprattutto hai parlato di tre giocatori che avrebbero effettivamente potuto giocare nell'NBA. Per qualità tecniche e anche per qualità morali e atletiche. Parliamo soprattutto di Andrea Meneghin e di Carlton Myers, non solamente di grandi giocatori, ma anche di grandissimi atleti, il che sicuramente è importante per potersi adattare e poter sostenere un campionato stressante come quello NBA. Per Gregor Fuchs chiaramente il discorso atletico influisce meno, però aveva un talento tale e una statura dove avrebbe potuto effettivamente fare molto bene. A quale livello? Credo che coach Peterson, prima nel suo intervento dicendo Bellinelli dovrebbe andare in una franchigia che gli permetta, ecco, credo che questo poteva dipendere un pochino da dove sarebbero capitati e quali opportunità potevano avere, perché un conto è andare nell'NBA per la valutazione in assoluto del tuo valore, e un conto è andare nell'NBA per la valutazione in assoluto del tuo valore e perché questa valutazione costringe una franchigia ad impegnarsi nei tuoi confronti, inserendoti anche in una squadra che ti possa permettere di giocare. Erano tutte e tre in grado di poter giocare ad altissimo livello. Io credo che Andrea e Myers soprattutto avrebbero potuto giocare in qualsiasi squadra. Angelo, provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io sono un ex giocatore di calcio e un allenatore di calcio. Sì. Mi sono avvicinato al vostro mondo da qualche anno e niente, voglio portare soltanto le mie considerazioni molto semplici. Devo dire che se forse il calcio si avvicinasse un po' di più a voi, potrebbe imparare tante cose. Tipo? Ho verificato che c'è una cultura, un'educazione di base in tutti i settori, nell'ambito di chi insegna il basket, di chi lo parla, come voi giornalisti, professionisti molto bravi, e io devo dire sono rimasto un po' così esterrefatto dal vostro mondo, e ogni giorno di più mi entusiasma sentirvi, seguire il basket, benché io non sia un grande esperto. All'inizio ho iniziato con seguire la nazionale e ho apprezzato molto, e così ancora attualmente, il signor Recalcati per come si approcciava alle interviste, per la sua presenza in campo. E voi credo conosciate il mondo del calcio, tutto questo io capisco la sua amarezza, però anche parlare di mondi diversi secondo me è sbagliato, insomma è facile trovare aspetti deteriori nel calcio, in come è gestito il calcio, leggendo i giornali in questi giorni, eccetera eccetera eccetera, ma un po' meno di pessimismo, no? Sarri, cosa dice? Beh sì, no, io credo che innanzitutto bisogna anche partire dal presupposto che sono effettivamente due mondi molto lontani. Sì. E sono mondi molto lontani perché è l'interesse dell'opinione pubblica che è diversa, dobbiamo essere molto realisti. Se vogliamo, noi siamo sicuramente al centro dell'attenzione, subiamo delle pressioni da parte della stampa, da parte dei tifosi, però non sicuramente a livello del pallone. Del pallone. E quindi credo che io ne ho avuto un esempio ed è stato emblematico. Abbiamo fatto una riunione a Coverciano tra commissari tecnici e nel momento in cui arrivò Alessandro Magro, non so, della Scherpa, sì, piuttosto che Anestasi della pallavolo, o Campagna della pallanuoto, l'interesse dei giornalisti presenti era abbastanza caldo, però una cosa soft, chiamiamola così. Quando arrivò Trapattoni ci fu il delirio e i giornalisti, che sembravano 4 o 5, diventarono improvvisamente 100, sbucarono da tutte le parti. E questo secondo me è un pochino la dimostrazione della diversità del calcio rispetto alla pallacanestro e anche agli altri sport, dove chiaramente le esasperazioni sono molto diverse. Sì. E dove c'è esasperazione chiaramente è un po' più difficile mantenere equilibrio. Palla spicchi. Ecco che torniamo, sempre con noi Carlo Recalcati. Adesso facciamo un salto in America perché mi interessa capire che aria tira lì, quali sono gli umori, cosa scrivono i giornali. Simone Sandri da New York, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Carlo. I playoff che stanno per partire, visti dall'America, quali temi di oggi, Simone? Della vigilia dell'inizio di questi playoff? Beh, innanzitutto temi ce ne sono tantissimi, perché quando partono i playoff si dice che la stagione vera inizia adesso, perché le 82 partite di regular season servono a determinare questa griglia, diciamo che si parte con l'idea che l'arrivo sia già scontato, cioè l'arrivo sarà Kobe Bryant contro LeBron James, questo è quello che vorrebbe Davis Stern, questo è quello che vorrebbe la rete ABC che trasmetterà le finali, e questo in teoria è quello che vorrebbero tutti i tifosi NBA, però ci sono tantissimi ostacoli, sia da una parte, perché Cleveland comunque ha qualche problema, qualche lacuna, nonostante abbia dominato la Eastern Conference, invece i Lakers, che sembravano la squadra imbattibile fino a un certo punto della stagione, soprattutto per il loro approccio difensivo, anche grazie anche all'arrivo di Ron Artest durante l'estate, hanno mostrato diversi problemi e diverse incognite anche nelle ultime settimane, per cui sono molto curioso di vedere soprattutto questi primi round non semplicissimi di Cleveland con Chicago e soprattutto di Los Angeles Lakers contro Oklahoma City, della nuova stella NBA, uno dei nuovi giovani che è Kevin Durant. Giocatore mostruoso. Caro, sei anche tu dell'idea che sarà Lakers contro Cavs, che sarà l'anno di LeBron James, o succede qualcosa per te? No, dovrebbe essere così, però insomma credo che il bello sta appunto nel fatto che non si può dare niente per scontato, però credo che finirà così. Credi finirà così. Simone, dimmi Flavio. No, io volevo chiedere a Simone, visto che qui siete tutti o quasi pro Cleveland, tu sai benissimo che io ho i Lakers nel mio cuore, quindi voglio capire meglio un po' questa situazione che Simone stava raccontando prima, cioè cosa sta un po' inceppando o ha inceppato il meccanismo dei Lakers in questa stagione? Innanzitutto c'è questa incognita degli infortuni. Bynum è un giocatore potenzialmente straordinario, ma è molto fragile ancora, e ancora anche quest'anno ha avuto dei grossi problemi fisici. Nelle ultime settimane si sono fatti male anche giocatori un po' di secondo piano come Farmer e Sasha Vucevic, che comunque nei playoff potrebbero risultare importanti, e c'è stata una certa flessione anche da parte di Kobe Bryant, e in più ci sono stati dei segnali non eccellenti per i tifosi dei Lakers, sono i segnali che Kobe Bryant dava un paio di anni fa, cioè questo nervosismo nei confronti dei compagni, ha pizzicato anche Pau Gasol, ha mostrato un pizzico di nervosismo, è una cosa un po' particolare, perché comunque i Lakers hanno un roster sicuramente straordinario, il miglior roster della Western Conference, probabilmente il miglior roster anche della NBA, per cui da un punto di vista puramente del pronostico è difficile pensare che i Lakers possono inciampare almeno prima della finale, però è stato un po' strano secondo me quest'ultimo mese, nei quali i Lakers non hanno dominato, non hanno comunque dato questa impressione di forza che avevano dato per tutta la stagione. Simone, ti chiedo ancora questo, il futuro di New York, ovviamente l'argomento del momento, ieri parlando con Gallinari ed Antonio ho provato in tutti i modi a fargli dire un nome che poteva essere quello di LeBron James, di Dwayne Wade, di chi vuoi tu. Ci ho provato in tutte le maniere e non ci sono riuscito. Non sono riuscito a fargli sputare un dannato nome, nemmeno sotto tortura. La verità è che purtroppo in questo momento credo che nessuno sappia quello che succederà a New York, ma anche nelle altre squadre che sono un po' alla finestra, aspettano questo primo di luglio con grandissima ansia e attesa, perché cambierà sicuramente i destini di tante franchigie questo mercato, il mercato più importante almeno da diversi anni. Il problema è che tutti i free agent di primo piano, da Bosch a LeBron James innanzitutto e a Dwayne Wade, stanno dando segnali un po' contrastanti, perché da un lato fanno l'occhiolino alla propria squadra, LeBron a Cleveland e soprattutto Wade con Miami, dicendo sì sì, alla fine ritorno, alla fine rifirmo, basta che mi date dei giocatori tali per i quali io possa puntare a rimanere al vertice per diversi anni. Dall'altro però fanno anche, strizzano l'occhio anche alle altre squadre, per cui tengono i contatti tramite il loro agente con tutti, regalando un po' ottimismo alle altre squadre che sono alla finestra, come i Nets, New York e Chicago, che sono le squadre che hanno la possibilità, grazie alla loro salary cap, di poter portare a casa uno di questi free agent, per cui sarà molto molto molto difficile capire quello che può succedere. Se io devo dire, il feeling che ho io è sinceramente non credo che alla fine né LeBron James e né Dwayne Wade lasceranno Miami, per cui ho paura che i Knicks dovranno accontentarsi di un piano B che comunque potrebbe essere abbastanza allettante, come due free agent come magari Chris Bosh e Joe Johnson di Atlanta. Grazie Simone, buon lavoro. Grazie. Grazie a voi. Grazie Simone Sandri. Carlo, tra l'altro New York Knicks, altra notizia della settimana, apriranno la loro stagione, che dovrebbe essere quella del riscatto dopo gli anni di sofferenza, anzi di dolore, ha detto ieri D'Antoni, ha usato questa parola, a Milano. Speriamo che sia una grande squadra, affascinante, entusiasmante, ma speriamo anche che sia una Milano diversa, all'altezza. Speriamo che siano due grandi squadre. Ognuna nel suo ambito. In modo che ci sia l'apertura della stagione NBA per New York e l'apertura della stagione italiana per Milano. Quanto conta questa gita dei Knicks a Milano? Per l'NBA moltissimo, perché il mercato italiano è ancora da esplorare, da aprire, da non solamente per New York. L'NBA è molto attenta sicuramente a ciò che sta succedendo ad esempio in India, perché è un mercato, così come è stato la Cina nel recente passato per loro, l'India in questo momento sta diventando un mercato molto ma molto appetibile. Però non dimenticano chiaramente l'Europa e non dimenticano in particolar modo l'Italia, adesso che hanno giocatori NBA, soprattutto adesso che hanno un giocatore come Danilo Gallinari per New York, e quindi stanno cercando di intensificare le iniziative nei confronti dell'Italia, proprio per cercare di continuare a catturare appassionati, perché credo che l'NBA insegna, ed è una cosa che facciamo molto fatica noi a recepire, ma forse la recepiamo ma non abbiamo la possibilità di farlo, è che chiaramente tu devi riuscire a creare una struttura che ti permetta di gestire una stagione senza soffrire troppo, dal punto di vista economico. Devono farti parlare anche di Milano, però. Ma Milano... arrivano i messaggi. Quello che spero... Kaukenas, Pargo, che tra l'altro non può prendere... Allora, Pargo non poteva venire a Milano, anche se Chicago non fosse andata ai playoff. Perché è un giocatore che avrebbe dovuto essere rilasciato prima del termine dei play-off, della stagione regolare. Comunque era un giocatore che comunque non sarebbe arrivato a Milano. C'è la possibilità, credo, ma è quello che leggo anch'io, Kaukenas, il quale io lo conosco benissimo, ha una voglia di giocare come un ragazzino che ha appena iniziato a giocare a basket, per cui immagino quanto lui possa soffrire a Madrid in questo momento in cui è uscito dalle rotazioni di Ettore Messina, e immagino quanto sarebbe anche disposto a rinunciare a qualcosa di suo per poter tornare in Italia e giocare. Questo è un dato di fatto. Poi che Kaukenas possa essere il giocatore adatto a Milano non lo so, sicuramente è un grande giocatore, è un combattente e quindi è sicuro che sarebbe un giocatore che piacerebbe molto al pubblico milanese. Bisogna vedere poi dopo gli equilibri come si ricreano, perché è chiaro che in quel caso lì sarebbe un giocatore molto ma molto importante, quindi ci sarebbero da ricreare degli equilibri diversi rispetto a quello che è oggi è il momento attuale. Sarebbe un'inversione di tendenza in qualche modo rispetto alla politica che ha adottato Milano, cioè quella di andare comunque a prendere dei giocatori che non alterino gli equilibri di questo gruppo, che però coperta corta non è competitivo a livello scudetto. Però insomma, credo anche che è giusto che in alcuni momenti della stagione vengano fatte delle riflessioni magari diverse, prendendo atto di quello che hai fatto, dove sei arrivato con una scelta di quel genere lì, e se non è il caso magari di cambiare qualcosa per cercare di ottenere di più. Francesco, provincia di Arezzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Una domanda di Fantabasket: quanto potrebbe essere il punteggio finale fra un'ottima squadra italiana tipo Siena, Milano, Roma contro Cleveland o contro Los Angeles, una partita seria, dico. Per me tanto a poco, però lascio a voi. Carlo? Giocato in un momento della stagione come le giochiamo abitualmente noi, ci può essere partita e poi vince la squadra NBA. Sì. Giocato in un momento in cui la stagione si decide e giochi per vincere il titolo, 20-25 punti. Barcellona? Allo stesso. Lo stesso, dici? Sì, perché potrebbe magari rimanere tenere la partita un pochino più aperta, un pochino più incerta, però credo che poi alla fine tra Cleveland, Lakers, al massimo della condizione, al massimo delle motivazioni e le migliori squadre europee, ci possa essere quel divario. Senti, il che vecchio... non vuol dire che tra la pallacanestro europea e la pallacanestro NBA ci siano questi 20-25 certo, punti certo, di scarto. Certo. Senti, ma il tuo vecchio Baso ce la fa alzare quella coppa? Allora, Baso... Baso ha goduto, parole sue, ha goduto come un riccio finalmente a battere Messina. Questa... Quindi una l'ha già messa in terra, soddisfazione è già. E questa è una cosa di... Però è chiaro che adesso poi arrivano i playoff, quindi poi bisogna rimettere tutto in discussione. È chiaro che lui è carico, è molto carico ed è convinto, è contento, è convinto di poter fare effettivamente il grande slam. Sono convinti tutti a Barcellona. E la cosa più importante è che lui è convinto di restare ancora a Barcellona. Leggevo anch'io. Sì. Non molla niente. No, lui a Barcellona si trova bene, e le sue quattro donne sono effettivamente molto contente di vivere lì, anche se poi dopo sono molto legate all'Italia, sono legate alla loro terra e poi anche a Bologna. Però insomma, dal punto di vista professionale, credo che in questo momento in Europa nessuno possa aspirare a niente di meglio che il Barcellona. Palla spicchi. Torniamo insieme, sempre con noi Carlo Recalcati, è arrivato adesso Flavio Tranquillo. Buongiorno Flavio. Buongiorno a voi. Oggi te la faccio brutta, sai perché? Perché adesso ti faccio fare quello che fanno negli Stati Uniti in questi giorni, tutti dal presidente in giù, il tabellone. Il tabellone è difficile ovviamente, lo sbagliano tutti dal presidente in giù, o quasi tutti. Sì. Poi il tabellone logico è un tabellone che porta a Cleveland, Los Angeles, e non certo perché è quello che sperano a New York, ma perché sono state le due squadre più continue durante la stagione. Senti, facciamo così, confronto tra te e Recalcati, partita per partita. Ciao Carlo. Partita per partita, Cleveland-Chicago sulla carta scontata, magari non è così. Flavio 4-0. Carlo, direi proprio di sì. 4-0, sì. Chicago niente nonostante lo straordinario festa, una la vince secondo te. Boston-Miami, questo è il confronto forse più equilibrato. Flavio, se va lunga 4-3 per Miami, se Boston riesce a chiudere la prima 4-1 per Boston, però ho come più idea 4-3 per Miami. Carlo? Come faccio a non essere d'accordo con Flavio? 4-3 per Miami, 4-3. Quindi pronostico sovvertito per Boston. 4-3 per Boston. Ah, per Boston, però per te Flavio Suardi. 4-3 per Boston. Ma perché Flavio Tranquillo? Perché Boston ha questi problemi? Perché guardi la squadra, se non segui dal profondo e attentamente l'NBA, dici, squadra da titolo se ce n'è una. Invece non è così. Perché? La squadra da titolo se ce n'è uno, per essere così, è così. Soprattutto a livello di nomi. Il problema è che per vincere il titolo che hanno vinto nel 2008 hanno dovuto esporsi finanziariamente su giocatori con un certo tipo di età e tu naturalmente non mandi in campo il nome o il contratto, ma mandi in campo una persona in pelle e ossa, e quindi carne, pelle e ossa, e quindi Kevin Garnett del 2005 è una cosa, del 2008 è una cosa e del 2010 è un'altra cosa. Se mi ridai Garnett del 2008 rifacciamo il tabellone e vince il titolo Boston, però se per 82 partite o quelle che ha giocato, che sono molte meno di 82, non lo è stato nell'82 dell'anno scorso, i playoff dell'anno scorso non li ha giocati, questo mi fa pensare che più si va avanti più spendono e meno hanno da dare. Andiamo avanti, Orlando Charlotte. Flavio 4-1 Orlando. Dottore Calcati, Orlando 4-1. Uguale. Atlanta Milwaukee, non c'è gara. Qua c'è più gara secondo me di quello che si può pensare. C'è un genio della panchina, come peraltro sulla panchina di Charlotte, però gli allenatori, con rispetto di Recalcati, che tra l'altro è stato giocatore e sa che è così, e forse lo sa ancora di più da allenatore, contano il giusto. 4-2 Atlanta. Charlie. Atlanta sicuro. Adesso vogliamo subito dall'altra parte dell'oceano. Lakers contro Oklahoma City di Kevin Durant sulla serie scontata, no Flavio? Però io Kevin Durant contro i Lakers lo voglio vedere in un playoff. Guarda, ogni partita che vincono i Thunder è un'occasione in più di vedere Durant, e non solo Durant, perché Oklahoma City è molto altro. Penso a Sefolosha, che è un difensore con pochissimi eguali su questo pianeta. Penso a Westbrook, che non ha un ruolo, non ha tiro da fuori, ma è un giocatore per certi versi entusiasmante. Ha un sistema, sono allenati veramente con un concetto molto europeo. Se ci regalano 6 gare, direi, di Durant contro Kobe, siamo assolutamente contenti. 6 gare sono tante. Kevin Durant è un giocatore mostruoso, Carlo? Sì, assolutamente. Comunque sono d'accordo. 6 gare? Assolutamente. Lakers, speriamo che siano 6 gare. Denver Utah è equilibrata o no? Denver Utah molto equilibrata, conta moltissimo il momento di Denver, se veramente George Karl può rientrare al secondo turno. Questa potrebbe essere una motivazione forte per un gruppo che si è un po' perso nell'assenza, per i motivi di salute molto seri, del suo capo allenatore. Però Denver ha esperienza, veramente qui mi verrebbe da dire 4-3 è quella che fa l'ultimo canestro in gara 7. La più tirata di tutte, Charlie. Beh, sbilanciamoci, Denver. Denver. Andiamo avanti con la serie più incerta, con la squadra che secondo me può far saltare il banco, come sempre, Dallas-San Antonio. Se Ginobili è quello delle 3 settimane e Duncan ha qualcosa da dare, San Antonio. Però sono due grossi se. Poi è molto particolare perché gli Spurs praticamente ritrovano Parker, Ginobili e Duncan per la prima volta a gara 1 in questo weekend, dopo che per mille motivi non sono mai stati almeno il vero Parker, il vero Ginobili e il vero Duncan assieme durante l'anno, e questo per come giocano gli Spurs tende a contare. È vero che ti viene da dire questa è la sorpresa, però sarei tutt'altro che stupito se alla fine vince 4-2 Dallas. Charlie. Sì, io credo in Dallas. Credi in Dallas anche tu? Dallas. Plebiscito. Chiudiamo con Phoenix Portland. Flavio. Molto interessante. Qui dipende tutto da Brandon Roy. Se c'è Brandon Roy, Portland ha una chance. Se no, non ce l'ha. In questo momento i Suns mi sembrano la seconda miglior squadra a Ovest. Sarei quasi tentato di dirti la prima, ma la regular season dei playoff sono due cose diverse. Quel sistema a livello di playoff qualche controindicazione ce l'ha. Però in questo momento, soprattutto se non c'è Brandon Roy, c'è poca corsa. Grazie Flavio, poi facciamo i conti, mi sono scritto tutto, No, fai cancellare da Carlo, per l'amor di Dio, è scritto sulla sabbia. No, scritto a penna, adesso ritaglio e metto via, poi ne riparliamo. Tanto ci sentiamo. Ciao a tutti. Tanto ci sentiamo. Grazie Flavio, tranquillo. Charlie, invece io a te farei fare il tabellone dei playoff italiani, ma ancora non è stato scritto, però... Però ti dico, adesso c'è ammucchiata selvaggia. Il gioco chiaramente è quello di acquisire delle posizioni che ti permettono di incontrare Siena. Sì. Il gioco è quello. Ma poi adesso ammucchiata selvaggia, adesso che hanno tolto Napoli, no? Leggi la classifica, vedi, pam, Cantù seconda, sì. 30 punti da sola come un flash. E ti dirò che Cantù potrebbe arrivare anche seconda, quindi penso che non sia una cosa sporadica. Però è anche vero che questo campionato ci ha insegnato che... basta un attimo perché delle squadre si perdano o comunque interrompano quella striscia positiva che hanno avuto. È un campionato segnato così, lo è stato per Caserta, lo è stato all'inizio per Avellino, lo è stato anche per Montegranaro che ha inanellato quella serie di vittorie e adesso domenica arriverà la terza sconfitta. Arriverà anche per Cantù probabilmente l'interruzione di questa striscia qua. Però credo anche che Cantù abbia la possibilità di giocarsi almeno la possibilità di non arrivare a incontrare Siena se non in finale. Non dico che Cantù arriverà in finale, perché sennò poi a Cantù succede veramente la rivoluzione del finimondo, però credo che in questo momento le squadre che sono dietro Siena comincino a guardare con un occhio di riguardo a certe posizioni della classifica. Sì, peccato che Cantù sia peccato nel senso di questa, che Cantù sia seconda quando andrà a prendere realisticamente mantenere quella posizione o Milano o Bologna o Roma, una di queste tre, quindi paradossalmente arrivare secondi non è che sia... Questa è un po' la storia che è stata di Montegranaro 2 anni fa, di Teramo lo scorso anno, che ha una grande stagione regolare e poi dopo, avendo delle squadre che deludono un po' nella stagione regolare, ti trovi ad avere un confronto con squadre sulla carta superiori. Però io voglio vedere sinceramente qualcuno che va a vincere al pianello. Voglio vederlo anch'io. Grazie Carlo. A presto. Ti aspettiamo ancora. Volentieri. Grazie a Gianni Recalcati, a Flavio Suardi, a Franco Piantanin per il lavoro in redazione, a Pietro Lacorte in regia con lo sport. Torniamo domani pomeriggio dalle 5 alle 6. Ne avremo di cose da dire con Inter Juventus di questa sera e con Leonardo. A proposito, ha smentito per i tifosi milanisti, ha smentito che questa rescissione del contratto, notizia circolata nelle ultime ore, ma avremo modo e tempo per parlarne domani.